questa valla, ogni mio singolo frate da un'altra madre, la mia mano è qua per rialzarsi se cade. Aggregazione, la via nella confusione, in pace o nell'aggressione, il mio sangue è loro tipo trasfusione. Amore alle persone vere, all'ombra delle sere, a chi fuma dal mio spliff e beve dal mio bicchiere, ai giorni persi nella city, a chi fa sacrifici, alle urbane leggende tramando i miti. Diverse matrici portano a destini uniti o divisi da visitrici. Io non dimentico le radici, cambia l'attitudine, ma sono le stesse quasi impresse nelle retine, fra lealtà nel DNA. Stessa mentalità da piazza, anche tra anni in giacca e cravatta, quando sarà vecchia la mia faccia. Stringo legami e saldo i nervi, gli infami sono tanti perché l'odio e l'invidia li rendono loro servi. Per quello che ho imparato a giro va la stima in rima alla seconda famiglia a cui tengo più della prima. Per i miei fra, alzo il volume così, illuminati scoppiati, alzo il volume così, Fabio, Davide, Frank, alzo il volume così, LK, Alessandro, alzo il volume così, per Milano i suoi king, alzo il volume così, in auto pompando il beat, alzo il volume così, sono sangue del mio sangue finché non sarà finita. Sono piegato mani a terra, segni sul viso, tocco uno sfregio e mezzaluna sul volto e non è un sorriso. Gli infami che m'hanno inciso sanno com'è che vivo, io rido. Dietro di me c'è un frapronto per il delirio, c'è chi darebbe la vita per me se io per lui, ed è chi sa che uno sgarro poi ti costa come lui. Quanti ne ho visti fare l'oro, quanti toccarsi un foro, si sa se fanno i pazzi coi pazzi peggio di loro. Io stringo fatti di sangue invalicabili con la feccia, con dietro storie raccontabili e no, ma so, lo posso dire che sono pronto a morire, un fra per un fra, meglio crepare che tradire, perché la mia gente che taglia ha martellato gli infami di tutta Italia, segna se c'è chi sbaglia, ma non cambierei un fra con niente, anche la donna se ne va, l'amico resta per sempre, salvo e sgarra. Alzo il volume così, per Emiliano e Mezzolla, alzo il volume così, per Robby, Giulio e Moreno, alzo il volume così, per Sante Calimero, alzo il volume così, per Via Solare e Via Delsa, alzo il volume così, PM gente che spezza, alzo il volume così, sono sangue del mio sangue finché non sarà finita. Guardo negli occhi il mio avversario, vedo un fra messo a terra dall'acciaio. Io che giuro, non vivo e non muoio finché il cuoio di quel cane non sentirà il respiro di un cane da sfida del buio. Intreccio fatti tre versi, tolgo vita dall'asfalto, muovo passi verso posti dove squadre avversi cercano pasti. Vedo fratelli esposte ai costi della vita, c'è chi evita e chi in pratica le leggi tramite capi d'accusa. Tengo fede ai legami che tengono vivi nei secoli, crimini taciuti nei vicoli, tra i vicoli della city, con storie tatuate su corpi da cicatrici. Io tra i fra sopravvissuto e l'odio puro, dietro il velo del suono un uomo da 16 ombre. Ho una lacrima per ogni fra risalita al cielo, per ogni lacrima un'ombra che sanguina noi fratelli tra sbagli e tagli, dove la strada è madre conosce i suoi figli per stampe eterni. Alzo il volume così, per Angelone Rale, alzo il volume così, per Giorgio Lace Meme, alzo il volume così, per Nazareno, alzo il volume così, per Via Fossi, alzo il volume così, per tutta la 16, alzo il volume così, sono sangue nel mio sangue finché non sarà finita. Fratelli.